Europa 24. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchesi. In corso a Bruxelles il Consiglio europeo, il Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha avuto un scambio acceso con Angela Merkel, dicono così alcune fonti diplomatiche secondo le quali l'oggetto della discussione è stato l'EMU, l'Unione Economica e Monetaria, in particolare la questione della garanzia sui depositi bancari. Non potete raccontarci che state donando il sangue all'Europa, cara Angela, ha detto Renzi, rivolto alla cancelliera. L'agenda oggi prevede una discussione sullo stato dell'unione bancaria. C'è ancora da sciogliere il nodo del suo terzo e ultimo pilastro, quello della garanzia europea per i depositi, dopo il completamento della sorveglianza bancaria unica e del sistema unico di risoluzione delle crisi bancarie. Sulla garanzia dei depositi le posizioni rimangono lontane fra chi, ad esempio come l'Italia, è favorevole a procedere il più rapidamente possibile, chi come la Germania continua a frenare e rimandare le decisioni da prendere. Pochi secondi fa anche la Merkel ha detto: vogliamo uscire più forti dalla crisi, abbiamo detto che serve sviluppare un miglior coordinamento economico, continuare l'unione bancaria e l'unione dei capitali. Su questi punti ci torneremo, ha detto pochi secondi fa Angela Merkel. Tanto ieri, tra i tanti temi di discussione, si è parlato anche di guardie di frontiera. Werde ich für Deutschland zum Ausdruck bringen, dass wir die Vorschläge der Kommission sehr stark unterstützen. Auspichiamo di chiudere il dibattito sulla proposta della Commissione europea sul corpo di guardie di frontiera sotto la presidenza olandese dell'Unione, che si chiuderà a fine giugno. Così la cancelliera Angela Merkel al termine del primo giorno di lavori del vertice europeo, rimarcando quella che è la linea della Germania, della Francia, ma anche della Commissione e del Consiglio. L'istituzione di un'agenzia di guardia coste e guardie di frontiera europee che in caso di vulnerabilità dei confini agisca su comando di Bruxelles contro la volontà di uno Stato. Idea molto controversa, riconosce lo stesso Tusk, che però avverte: le alternative sarebbero altrettanto dolorose. L'allusione alla possibilità di sospendere da Schengen fino a 2 anni un paese incapace di mantenere il controllo delle proprie frontiere esterne. L'ipotesi di cedere un pezzo della propria sovranità nazionale non piace a molti paesi, tra questi il blocco dell'Est. Il premier Matteo Renzi è invece insofferente per l'Unione a guida tedesca. Credo che la relocation al momento abbia interessato meno dell'1% dei numeri che erano stati promessi. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Berlino ha chiesto al Consiglio europeo che l'Afghanistan sia inserito nella lista dei paesi di origine sicura per potervi poi rimpatriare i migranti. Si apprende da fonti europee. Roma vuole invece che gli afghani siano inclusi tra le nazionalità dei profughi da ricollocare dall'Italia verso i partner europei. Il tema sarà discusso nelle prossime settimane. Nelle conclusioni del vertice si legge infatti: il Consiglio è invitato a esaminare celermente la situazione che riguarda l'Afghanistan. La bilancia dei pagamenti UE ha registrato un surplus di 19,8 miliardi ad ottobre, dopo i 19,7 di settembre. Ottobre 2014 l'avanzo era di 10,8 miliardi. Questa è la stima di Eurostat. Su mese è aumentato il surplus dei beni, più 11,3 miliardi da più 11,1, mentre è calato sul fronte dei servizi, più 12,7 miliardi da più 13. L'avanzo del reddito primario invece è rimasto praticamente quasi invariato. Per Europa 24 ci risentiamo questa sera in effetto notte. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.